Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Questo è Ferry Boat e io sono Enzo Argante, il traghettatore. Buongiorno. Puntata di Ferry Boat dedicata alla responsabilità sociale delle imprese. In due battute e in maniera molto povera, per evitare complicazioni di comprensione col caldo, la responsabilità sociale dell'impresa vuol dire un'impresa attenta al rapporto col territorio, con i dipendenti, ovviamente con i clienti, un'azienda che non punta solo ed esclusivamente al business, ma che traduce gli elementi del business anche in termini sociali, culturali, di solidarietà, di rispetto dell'ambiente e di tutti i temi che Ferry Boat, in questo viaggio verso l'economia sociale, sta trattando nel corso delle nostre puntate. Chi sono gli uomini d'azienda, pubblica e privata, che hanno il compito di assicurare che la barra, per continuare nella metafora di navigazione, sia nella direzione dritta? Sono i cosiddetti CSR manager che abbiamo incontrato nel corso della puntata dedicata alle nuove figure professionali. Sono diventate un piccolo esercito, sono anche un esercito molto strategico, perché sono nelle stanze dei bottoni delle aziende grandi e piccole, e qualcuno in particolare ha pensato di relazionarli fra di loro, di raccoglierli in un network, in un'associazione. Mario Molteni, buongiorno. Buongiorno. Direttore di ATA, Scuola Imprese e Società dell'Università Cattolica di Milano. Direttore, lei ha in pochissimo tempo, assieme ai suoi collaboratori, messo in piedi questo CSR Network Manager, è così? Sì, esatto. Ecco, la nostra idea, un'idea che è emersa circa 3 o 4 anni fa, era proprio che questo nuovo profilo professionale non aveva un ambito di rappresentanza, non aveva un ambito in cui scambiarsi esperienze e quindi accrescere le proprie competenze, e non aveva un ambito in grado appunto di rappresentarlo nei confronti dell'esterno. Di qui l'idea di creare un network. Che è relazionata a livello internazionale, perché comunque ci sono dei collegamenti con la casa madre londinese, se non ricordo male. Ci sono dei collegamenti a livello internazionale, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e anche in paesi emergenti, che per esempio in realtà come l'India, la Cina o l'America Latina, ormai sono realtà molto sensibili ai temi della responsabilità sociale e della sostenibilità, per cui anche in quei contesti ormai stanno appunto maturando manager della CSR. La domanda è: questi manager della CSR hanno un reale potere di incidere sulle strategie dell'impresa, oppure sono al momento soltanto delle figure rappresentative di una tendenza non sempre che si concretizza non sempre? Ma il dato interessante è che quasi 60% di queste persone sono in staff all'amministratore delegato o al direttore generale dell'impresa. Quindi vedo una situazione, diciamo, ambivalente. Dal punto di vista della posizione, sono una posizione molto alta e hanno un accesso facile con l'alta direzione. Dal punto di vista del portafoglio, diciamo, delle risorse finanziarie che invece direttamente governano, queste sono molto limitate. Anche se io non penso che sia un grave problema questo, perché il loro compito, più che di attuare direttamente delle politiche, è quello di riuscire a influenzare sulle politiche che i colleghi operano a livello delle funzioni classiche del management. Un altro passaggio che potrebbe essere importante è il ruolo dei CSR manager nei processi della sostenibilità, cioè nel momento in cui è l'intero mercato che si sta muovendo in quella direzione. L'azienda responsabile si presume che sia particolarmente attiva su questo fronte. Certo, e allora cosa deve fare il CSR manager? Il CSR manager io lo vedo innanzitutto come un'antenna nel settore, nel contesto più generale, che è in grado di suggerire possibili direzioni di sviluppo ai propri colleghi. Quindi è una sorta di pungolo nei confronti dell'alta direzione o del direttore marketing o del direttore produzione o del direttore della logistica, che indica quali potrebbero essere le azioni che abbiano due caratteristiche: da una parte sposarsi con la logica della sostenibilità e dall'altra invece di generare vantaggi competitivi effettivi per le imprese. Grazie al professor Mario Molteni. Questo percorso segnato con il CSR, o CSR come si dice in inglese, Network, ci porta quindi direttamente nel ventre del nostro Ferry Boat, il tema della sostenibilità. I CSR manager sono sicuramente delle figure chiave in questo senso. Ed ecco che diventa particolarmente interessante a questo punto capire come il tema della sostenibilità viene declinato dall'impresa, che non sempre ha un'attività o un business che possa incidere in qualche modo coerentemente e concretamente su quei percorsi. C'è chi, ed è il caso di Carlo Bassanini, buongiorno, buongiorno. Della SCS, che ha immaginato di individuare un indice, il Accountability Rating Italy, è così? Sì, esatto. L'Accountability Rating è un indice che va a misurare la capacità delle aziende di rendere conto ai propri portatori di interesse delle azioni che pongono in essere, in senso lato, quindi non parliamo solo di sostenibilità, ma parliamo in generale di delle azioni di business sia a livello strategico che a livello operativo e che raccontano il modo con il quale l'azienda fa business, tenendo in considerazione tutte quelle che sono le istanze dei propri portatori di interesse e gli impatti che questa loro attività ha su questi portatori di interesse. Ecco, ricordiamo a chi ci ascolta che i portatori di interesse sono giusto appunto i referenti dell'impresa nel senso più ampio del termine, dal dipendente all'ultimo dei fornitori piuttosto che alla pubblica amministrazione. È una bella responsabilità comunque che chi stila delle classifiche si assume. Con quali criteri allora, in maniera molto rapida e semplice, valutate la sostenibilità di un'impresa? Sì, in realtà ecco, questo è un passaggio fondamentale, la ringrazio per la domanda. Questo non è un vero e proprio, non è solo una valutazione della sostenibilità di un'impresa, ma è un passaggio ulteriore. È una valutazione anche di come l'azienda racconta la propria sostenibilità, perché è fondamentale, oltre a porre in essere le azioni, anche porre l'interesse e l'attenzione sulla trasparenza. La trasparenza è un elemento fondamentale della fiducia che i portatori di interesse, come ha richiamato bene lei, oltre a naturalmente ai soci, ma anche pensiamo ai lavoratori, pensiamo perché no per alcuni business ai fornitori, quanto sono importanti nella catena di fornitura di un'azienda. Quindi in generale la capacità di rendere conto a questi portatori di interesse delle azioni che si fa è assolutamente fondamentale. Quindi basiamo naturalmente su una metodologia che prevede una serie di domande che fanno riferimento a quattro dimensioni di analisi particolari. La prima è la strategia, quindi quanto un'azienda nella definizione della propria strategia tiene in considerazione appunto gli impatti e le istanze dei portatori di interesse. Il secondo dominio è quello legato ai sistemi di governo e di gestione, quindi quanto l'azienda all'interno si è strutturata per gestire questi impatti. Il terzo dominio è quello forse più importante, quello che viene chiamato stakeholder engagement, tutte le iniziative di coinvolgimento dei propri portatori di interesse per individuare le strategie e le azioni che l'impresa pone in essere. E il quarto dominio è quello che viene chiamato di performance, quindi va a misurare quelli che sono i risultati che l'azienda ha ottenuto nell'applicare le proprie politiche di responsabilità sociale. Quindi è una metodologia molto rigida e molto ben determinata che appunto fa la fotografia di queste quattro dimensioni. L'ultima classifica, anche se forse chiamarla classifica è banale, sì, del 2008, quali sono le aziende nella posizione di vertice, diciamo i primi? Sicuramente, allora, l'azienda che è risultata la prima, quindi che ha vinto il rating di quest'anno, è ST Microelectronics, è un'azienda che da anni investe sulle tematiche di responsabilità d'impresa, è un'azienda che ha dimostrato di aver ottenuto ottimi risultati su questi temi e ha anche raggiunto dei buonissimi livelli appunto di trasparenza nel raccontare questi risultati. Tra l'altro nel convegno di presentazione del rating che si è tenuto qualche mese fa a Milano, ST Microelectronics ha dimostrato di monitorare e anche di quantificare questi benefici, dimostrando proprio un'ottica di business ed economica nell'attuare le sue politiche. Grazie Carlo Bassanini, grazie dell'intervento, anche perché la domanda era di comodo, in realtà sappiamo benissimo che è stata ST Microelectronics l'ultima vincitrice fra virgolette della classifica di SCS e abbiamo chiesto a Pietro Palella, direttore generale di ST Microelectronics, di fare un po' i muscoli. Buongiorno direttore. Buongiorno. È un bel primato e a cui non siete nuovi peraltro, immaginiamo. No, noi abbiamo avuto parecchi riconoscimenti nel tempo per il nostro impegno sulla social responsibility e questo è l'ultimo e sicuramente gradito. Voi conosciamo, quasi tutti conoscono la storia della ST Microelectronics, una multinazionale italo-francese molto importante, ma soprattutto nell'immaginario collettivo è molto forte l'immagine del presidente, credo fra i fondatori, ingegner Pistorio, che racconta sempre una storia che comincia più di 10 anni fa e che porta poi a un risparmio di una cifra pazzesca, 300 milioni di dollari in 10 anni, solo perché appunto l'ST Microelectronics ha assunto un atteggiamento virtuoso nei confronti del risparmio, riuso e del riciclo. Ma sì, la storia infatti comincia nel 95, quando si fece su ispirazione dell'ingegner Pistoia a suo tempo quello che noi chiamiamo ancora oggi, perché esiste ancora e funziona ancora, il decalogo ambientale, che stabiliva una serie di regole, 10. Come decalogo, alcune delle quali erano semplicissime, per esempio il fatto che ogni anno si dovesse ridurre del 5% l'utilizzo di energia per unità di prodotto, oppure di acqua per unità di prodotto, oppure di sostanze chimiche per unità di prodotto, era la regola del 5%. E dal 95 ad oggi ogni anno noi misuriamo quello che è i nostri risultati, e per esempio per l'energia siamo al 5,3% accumulato nel tempo, per l'acqua siamo addirittura al 9%. Evidentemente risparmiare, utilizzare meno energia, utilizzare meno acqua, vuol dire anche risparmiare risorse economiche. Questo si traduce in un risparmio per l'azienda e quindi in un miglioramento dei risultati economici dell'azienda. C'è stato anche un atteggiamento particolarmente, come dire, efficace nei confronti dei rifiuti, cioè, se non ho capito male, addirittura voi avete uno stabilimento a rifiuti zero, allora, in Marocco, credo. Sì, Marocco è praticamente rifiuti zero, le faccio un conto a grate, che il nostro, una delle sedi principali italiane, lavora attorno al 97-98% di percentuale di riciclo, quindi praticamente solo il 2-3% dei rifiuti finisce in discarica indifferenziata. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Pietro Palella, direttore generale di ST Microelectronics, stavamo parlando dei rifiuti e curioso, solo un minuto per capire meglio, il 97-98% dei rifiuti prodotti dalla ST Microelectronics di Agrate alle porte di Milano non va in discarica, e che fine fa? Ma in realtà ci sono diverse destinazioni, beh, la carta banalmente viene riciclata, altre sostanze vengono utilizzate per costruire materiali alternativi, per esempio piastrelle, quindi abbiamo un vasto spettro, anche perché noi come stabilimento grosso quale siamo, abbiamo un vasto spettro di sostanze smaltite, e quindi è un vasto spettro poi di meccanismi di riutilizzo, di riciclo, veramente estremamente vasto. Grazie ingegnere, direttore della ST Microelectronics, avete sentito a conferma delle tesi che in questo ferry boat stiamo portando avanti ormai da settimane, quanto il rispetto dell'ambiente in tutte le sue forme possa produrre non solo risparmio per l'azienda, ma aprire addirittura settori di business inesplorati o esplorabili. Questo avviene genericamente in tutto il mondo delle imprese, con ovviamente alcune eccezioni, soprattutto quando il gioco si fa duro, si va grande il mercato di riferimento. ST Microelectronics è una grande azienda, ma sicuramente non ha un rapporto col mercato come ce la può avere una grandissima azienda, diciamo così, consumer, per esempio automobilistica. Mina Piccinini, buongiorno, è al telefono con noi da Fiat, giusto appunto. Buongiorno. Buongiorno. Che fra l'altro, voglio dire, voi siete al centro dell'attenzione del mondo, quindi probabilmente lei è stata sempre molto orgogliosa di essere del gruppo Fiat, ma oggi particolarmente. Abbiamo un motivo in più, diciamo. Un motivo in più di essere orgogliosi. Lei è responsabile dell'unità di sostenibilità di Fiat. Cominciamo a spiegare che cos'è un'unità, perché ha un bellissimo nome, unità di sostenibilità dà un senso di grande praticità e di mobilità. Esatto, esatto. Ma mi piacerebbe infatti iniziare prima di tutto a dire che in Fiat l'attenzione ambientale e sociale è qualcosa che non risale agli ultimi anni, ma è qualcosa che risale molto lontano nel tempo, addirittura alla nascita dell'azienda, e che si è evoluta con l'azienda stessa. Abbiamo fatto una serie di passi in questi anni che sono terminati, perché il processo di sostenibilità è un processo di miglioramento continuo, però diciamo lo step fondamentale che è stato fatto nel 2008 è appunto stato la creazione di questa unità di sostenibilità. L'unità di sostenibilità, che lei dice che ha un nome curioso. Sì, dall'idea di essere operativo, non un ammendicolo estetico. Ha fondamentalmente un ruolo di facilitatore. Nasce infatti con lo scopo di integrare sempre di più, in modo sempre più strutturato, i temi ambientali e sociali nella strategia di business dell'azienda. Ha il compito di individuare le aree di miglioramento sulle quali l'azienda si deve impegnare, e fissando anche degli obiettivi specifici che vengono comunicati nel bilancio di sostenibilità, e infine al ruolo appunto di supportare e coordinare i relativi progetti che restano comunque di responsabilità dei singoli settori, di chi operativamente se ne occupa tutti i giorni. Questo lo diciamo a beneficio di chi ci ascolta, evidentemente la prima e più rilevante, ugualmente rilevante, attività di sostenibilità della Fiat è quella che è al centro dell'attenzione dei giornali di tutto il mondo, quindi la tecnologia di bassi consumi e di basso inquinamento dei motori e delle automobili. Questo esatto, va da sé. Ricordiamo anche magari che la Fiat si è aggiudicato il primo posto per i più bassi livelli di emissioni di CO2, risultato molto importante. Infatti è quello che è piaciuto ad Obama, che ha dato origine probabilmente a questa cavalcata e fino a questo momento trionfale della Fiat. Dopodiché c'è anche un'attenzione dell'azienda, della multinazionale, sui temi di sostenibilità, diciamo non inerenti, non collegati direttamente al modello di business dell'azienda, e quindi rapporto col territorio, immaginiamo con la cultura, con la solidarietà, ecco, è questo il bilancio di sostenibilità, racconta queste storie di Fiat. Esatto, infatti ogni anno Fiat, la rendicontazione appunto di sostenibilità risale lontano nel tempo, abbiamo iniziato nel 1992 a redigere un rendiconto ambientale che poi si è trasformato nel 2004 in un bilancio di sostenibilità in cui venivano rendicontate le attività dell'azienda, non solo in ambito ambientale ma anche in quello sociale. C'è poi un'evoluzione di questo bilancio, che comunque rimane uno strumento di comunicazione evidentemente per i portatori di interesse dell'azienda. C'è stata un'evoluzione che è quella del piano di sostenibilità, cioè dal strumento di comunicazione, il bilancio, ad un piano che immaginiamo segni, descriva e accenni alle strategie operative del prossimo futuro di Fiat. Esatto, per noi il bilancio è uno strumento di trasparenza e di dialogo prezioso con tutti i nostri stakeholder. Quest'anno per la prima volta viene pubblicato il piano di sostenibilità, che contiene gli impegni del gruppo su varie tematiche relativamente al futuro. Quindi gli impegni per lo sviluppo di tecnologie sempre più rispettose dell'ambiente, per fabbriche cui cerchiamo appunto di ridurre l'impatto ambientale, iniziative a favore delle comunità, ci stiamo impegnando particolarmente per la formazione dei giovani ad esempio. Quindi in modo trasparente diciamo quello che faremo e le aree in cui ci impegneremo per i prossimi anni. Poi di anno in anno rendicontiamo e diciamo se gli obiettivi sono stati raggiunti, come ci auguriamo e come ci adoperiamo affinché questo avvenga, e vengono fissati nuovi obiettivi, quindi in un'ottica di miglioramento continuo, come dicevamo all'inizio. Bene, questa è la storia, grazie Mina Piccinini, di una grande azienda. Adesso parliamo un attimo, giusto per andare verso la conclusione della trasmissione, con chi invece le rappresenta tutte per definizione, cioè Confindustria. Pietro Guindani, buongiorno. Buongiorno a lei. Presidente, lei è presidente di Vodafone Italia, poi magari accendiamo un attimo anche a quell'aspetto, ed è coordinatore del gruppo di responsabilità sociale della Commissione Cultura di Confindustria, quindi è proprio verticale sul tema della CSR la sua attività in Confindustria. Sì, è corretto. Nell'ambito della Commissione Cultura presieduta da Alessandro Laterza, l'editore barese. Confindustria sui temi della responsabilità sociale sta accelerando, la sensazione, avendola seguita l'attività negli ultimi anni, che ci sia in questo momento una grandissima attenzione, forse proprio perché la responsabilità sociale d'impresa non è più solo un atteggiamento, come dire, buonista fra virgolette, ma un'azione operativa sulle nuove frontiere dell'economia sociale. Sì, è corretto. Innanzitutto la responsabilità di impresa è una dimensione culturale che deve riguardare tutte le imprese, a prescindere dai settori, dalle aree di attività o dalla dimensione. Però in secondo luogo si sta sempre di più diffondendo anche la consapevolezza che oltre a predicare bisogna razzolare bene, e dunque la responsabilità sociale diventa un insieme di comportamenti che informano tutta l'attività di impresa e che poi si concretizza in una serie di iniziative ben precise. Ecco, il punto è forse proprio questo, una serie di iniziative ben precise. La sensazione che ho, che si ha, è che nel momento in cui Confindustria, diciamo, scende in campo su questo tema, lo faccia anche per rivendicare appunto il ruolo di business, di economia sociale, non solo quello di esibizione muscolare, di atteggiamenti di solidarietà, che sono atti dovuti e assolutamente rispettabili, ma che non sono la vera essenza dell'atteggiamento responsabile di un'azienda. Sì, assolutamente. Io non direi rivendicare, io direi affermare, promuovere e diffondere. In altre parole, io credo che l'imprenditore di per sé abbia nella sua cultura la consapevolezza di agire in ambito sociale. Però questo tipo di consapevolezza deve diventare una dimensione che informa tutti gli aspetti dell'attività di impresa. E per questo motivo che anche questa dimensione deve essere organizzata, strutturata e resa un fattore comune. Quindi Confindustria ha deciso, da un lato, di dare priorità a alcune dimensioni tematiche, in primo luogo la dimensione della rendicontazione e della governance, la sostenibilità ambientale, il capitale umano e il rapporto col terzo settore. Queste sono tre aree tematiche. Inoltre ha avviato delle collaborazioni, da un lato con l'Università LUISS di Roma, con cui stiamo sviluppando una griglia di autovalutazione delle imprese, in particolare orientata alle piccole e medie imprese. In secondo luogo stiamo avviando quello che chiamiamo il forum CSR, ovvero il nostro programma è quello di creare in almeno 20 unità territoriali di Confindustria delle unità che siano il centro propulsore della cultura della responsabilità di impresa. Ecco, la sensazione che la responsabilità sociale di impresa sia, come dire, adatta e circostanziata per le grandi imprese, ma che possa essere troppo impegnativa per le piccole e medie, mi pare che non è vostra, cioè voi anzi avete un'azione precisa e specifica sulle piccole e medie, il grande capitale di Confindustria. Ma io credo che qui ci sia un fatto storico. Tradizionalmente le grandi imprese sono state le prime a rendere esplicito il tema della responsabilità sociale. Di conseguenza sono state anche le prime a organizzarsi con strutture specialistiche che si occupano di questo tema e che acquisiscono dunque la leadership all'interno delle organizzazioni per promuovere questa dimensione. Le aziende di piccole e medie dimensione non sono assenti da questo punto di vista, però chiaramente per un tema di risorse inevitabilmente può accadere che in quegli ambiti ci sia un ritardo. Allora, quello che noi vogliamo fare è mettere a disposizione delle piccole e medie imprese gli strumenti, non solo culturali ma anche operativi, perché quella propensione alla responsabilità sociale non sia solo spontanea e intrinseca alla cultura dell'imprenditore, ma diventi una prassi concretamente applicata. Non abbiamo moltissimo tempo, però in questi ultimi minuti le volevo chiedere di cambiare cappello. Facciamo riemergere il presidente di Vodafone Italia, che è un'azienda, tra virgolette, critica dal punto di vista della responsabilità, mi spiego bene. L'azienda fa business con la telefonia, no? Invitando le persone a comunicare il più possibile, quindi c'è decisamente, dal vostro punto di vista, una grande capacità di colpire l'immaginario collettivo dei consumatori, quindi avete una grande responsabilità in questo senso. Nella vostra politica di CSR come riuscite a combinare i due elementi, appunto, di immaginario collettivo e di responsabilità rispetto al territorio e ai consumatori? Ma guardi, lo facciamo in due modi. Innanzitutto gestendo l'impresa in un modo che sia responsabile e in secondo luogo essendo degli attori protagonisti nella dimensione sociale. Sul primo fronte, quello che è un impegno esplicito di Vodafone è quello di aiutare i nostri clienti, presso cui noi promuoviamo i nostri servizi, aiutarli a usare le tecnologie in modo responsabile. Quindi sia per gli utenti di fascia età giovanile, sia per la popolazione adulta, spiegare a tutti che cosa le tecnologie possono fare per loro, ma utilizzandole in modo responsabile. Poi tradizionalmente nella nostra storia siamo stati sempre molto sensibili a tutti i temi che hanno a che fare con l'elettromagnetismo. In tempi più recenti ci siamo anche molto impegnati sul recupero dei materiali elettronici che possono essere riconvertiti, trasformati in prodotti riutilizzabili o riconvertiti da un punto di vista energetico. Sempre sul fronte delle fonti di energia, il nostro impegno è quello di ridurre il livello di emissione, in particolare del 20% per l'anno 2020, del 50% nell'anno 2020, che è un obiettivo più ambizioso di quello europeo, che prevede una riduzione solo del 20% nell'anno 2020, e di utilizzare fonti di energia compatibili con l'ambiente. Grazie Presidente, grazie e complimenti per l'attività del gruppo CSR che sicuramente si farà sentire in maniera importante sul tessuto connettivo industriale. Abbiamo finito con la puntata sulla responsabilità sociale dell'impresa, questo è Ferribot e io sono Enzo Argante, il traghettatore. Alla prossima.